gentile bellezza ormai privo, resto disteso su questo spoglio corpo, come l'acqua che nel deserto si trova arida di idee e diviene presto corona di fiori, che riposa nella stanza dove l'uomo ha raccolto le sue spose e spoglie di vestiti dal colorato ricamo. Grazie.